Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, Rock Wave, puntata del mercoledì, e stasera abbiamo un avvenimento, secondo me, abbiamo un cantautore. Possiamo chiamarti un cantautore atipico, Marco? Ma sì, come ecco. No, certo. È la prima volta che ospitiamo uno che parte dal cabaret e poi sviluppa un discorso molto personale. Marco Carena, buonasera. Ciao. Stai bene? Hai fatto un bel viaggio? Ho fatto un bel viaggio, come dicevo prima, in treno. In treno. 2 minuti di ritardo, da Torino a Padova. Perfetto. Così che le ferrovie questa volta hanno mantenuto. Ma hanno mantenuto le promesse, sì, praticamente. I 2 minuti va ancora bene. Sì, dai. Va benissimo. Hai fatto bene, venire in treno, visto il tempo molto brutto è stato stamattina a Padova. Non so a Torino, ma a Padova... Sì, Torino era lì. Però leggevo che le perturbazioni si stavano spostando. Allora Padova c'è stata... Mi porto la nuvola come Fantozzi. Poi, fortunatamente, oggi... No, dato tutto. E poi sì. Fa caldo adesso. Fa caldo, sì. Veramente. Ok, cosa parleremo stasera con Marco? Parleremo della sua attività musicale, non soltanto di quella, i suoi dischi, i suoi progetti, il suo modo di cantare, di interpretare. Partiamo... Cioè, tu hai cominciato come il cabaret, ripeto, però il cabaret è stato solo un input, un motivo per poi iniziare un'altra attività. Sì, diciamo che in realtà io nasco come cabarettista per il grande pubblico, perché mi hanno visto appunto da Costanzo e lì facevo le mie canzoncine comiche, le cose così. Però in realtà io nasco proprio come rockettaro, che siamo su Rock Wave. Esatto, e ho le prove, perché nel mio secondo disco è stato inserito un frammento di una canzone, adesso perdonatemi il termine, ma fanculo gli inglesi. Perfetto. Che io avevo scritto nel lontano 1977, quando avevo un gruppo, Le Vecchie Pellacce si chiamava il gruppo, e facevamo rock italiano, quando tutti quanti invece cantavano in inglese, no? Certo. E io dicevo, ma possibile, se devi dire le cose, fatti capire. Chiaro. Se no vuol dire che non sei serio, non stai giocando. Certo. E quindi ho scritto questo testo, dove io mandavo quel paese, appunto, non tanto gli inglesi originali, come dicono, adesso che hanno preso solo una strofa. Certo. Ma questi qui, insomma, che scimmiottavano gli inglesi così. Poi... erano anni difficili, insomma, problematiche varie, il gruppo si è sciolto, ho smesso di suonare e poi ho ripreso quasi casualmente con il cabaret, perché dei miei amici, che ero finito a fare teatro in una compagnia amatoriale e suonavamo in uno spettacolo per bambini, e loro mi dicevano, ma sì, ma nelle prove, no? Ma tu scrivi le canzoni, facci sentire. Io ho fatto sentire qualcosa, ma c'è un concorso, perché non vai San Scemo? San Scemo è un concorso importante, esatto. Fondamentale. Sì, il primo San Scemo nessuno ci credeva. Fu un avvenimento. Sì, poi per me, sai, cantare al Palasport, dove avevo visto Santana, la PFM, tutti i gruppi così, io che cantavo sul palco dove sono stati questi qua, per me era già quella la vittoria, arrivare lì. Certo. Quindi per me... poteva anche finire lì tutto quanto, era già un grande successo, e poi invece è andata molto meglio. È andata decisamente... Hai cominciato nel 77 a cantare con le Vecchie Pellacce. Sì, a scrivere, a fare... 77, esatto. È l'epoca del punk, quindi dell'esplosione sì, del sì, punk. Sì, Sex Pistols, per la gente. Esatto, no, Sex Pistols, quindi... Esatto. Certo. È stato molto interessante. Quindi sei partito così, hai sviluppato un tuo discorso, sei approdato al Costanzo Show, ti hanno visto là, però... Sì, è stato un trapolino anche quello importante. Certo. Per fondamentale. Diciamo fondamentale. No? Com'è stata l'idea? Come ti hanno portato là? È stato un caso? È stata casualità? No, è stato sempre in seguito appunto a San Scemo. Nella giuria di San Scemo c'era invitato un redattore, il responsabile del cabaret, diciamo così, della redazione di Costanzo, che mi invitarono come vincitore di San Scemo. E io pensavo che una volta invitato Costanzo mi avrebbe chiesto, no? Ma perché, come mai uno si mette a scrivere così? Cioè, pensavo che ci fosse un approccio quasi filosofico. Invece no, mi tenevano lì come una macchietta e basta. Io esatto. Avevo tutti i discorsi miei da fare, dice, niente, canta e sta poi taci. E taci. Però è già stato importante questo. Sì, sì, quindi, San Scemo, lo spettacolo, che purtroppo adesso non esiste più, stavamo dicendo io e te a microfono spento, non esiste più, perché l'ironia a Sanremo, è difficile fare l'ironia su Sanremo, eh? È un po' complicato oppure no, secondo te? E beh, diciamo che gli ultimi che hanno fatto della vera ironia sono loro, gli inarrivabili Elio e Storia. Esatto, perché adesso sono però arrivati, visto che Elio fa il giudice di X Factor. Sì, sì, sì. E loro hanno fatto ironia. Sì, loro sono riusciti a fare grande musica e grande ironia. Diciamo che sono grandi musicisti, i Frank Zappa italiani. Sì, sì, no, sono gli unici che possono fare certe cose. E certe cose. Sì. Quindi, questo approccio a San Scemo, questo approccio al al Costanzo Show e poi una serie di cose, poi hai fatto delle cose molto interessanti, anche non prettamente legate alla musica cosiddetta, mi scuso il termine, demenziale, ma non è demenziale, è ironica. Ma io dico sempre, almeno quando lo dicono, dico sì sì, la demenziale va bene, nel senso che cerco di sottolineare, mettendola in musica, la demenzialità che ci circonda e che passa come normalità. Certamente. E in quel senso lei diventa demenziale. Diventa demenziale. I veri demenziali sono sempre loro, i maestri di Schiantos, che poi anche loro comunque hanno virato e sono diventati più così. Cioè che meno comunque... demenziali, cioè più non meno demenziali, più compatibili, cioè più avvicinabili, ecco, possiamo dire. Sì, questo. Sì, sì, ma d'altronde sono anche cresciuti e giustamente uno con l'età si evolve, ma cioè, Fricantoni rimane secondo me uno dei geni che abbiamo in Italia nella letteratura musicale, e non è un genio assoluto, uno che scrive non c'è gusto in Italia essere intelligenti ha già capito tutto. Certo, e giustamente dobbiamo sottolineare che sono dei grandi musicisti, sono migliorati anche loro, sì. Elio inarrivabile, però loro sì, loro come rock puro sanguigno sono comunque una grande rock band. Sì. Adesso, prima di continuare a parlare della tua attività, della tua carriera, parliamo del tuo singolo che è appena uscito due mesi fa, il mio nuovo singolo, il nuovo singolo che apre, che dà l'input al nuovo album che uscirà, che state già preparando. Sì, sì, stiamo comunque valutando come e quando farlo uscire, ma spero meno di convincere i produttori a farlo uscire a breve. Esattamente, è importante sottolineare nel singolo, dal punto di vista musicale è un grande pezzo, secondo me, fatto molto bene, al di là dell'ironia dei testi. Ti ringrazio. È un grande pezzo costruito bene, l'idea di questo pezzo così complicato musicalmente, con gli archi, una cosa molto, molto particolare. Ma perché appunto questo è un pezzo che mi hanno, come dire, suggerito dei miei amici, che poi sono gli stessi che hanno collaborato con me a realizzarlo, che sono i miei amici Gianfranco ed Enzo, che mi hanno aiutato negli arrangiamenti, che mi hanno detto che c'era appunto Enrico Bertolino, altro personaggio. Sempre sempre piemontese, torinese anche lui. Di Torino non lo so, forse lui di Milano. No, o vive a Torino, o ho vissuto a Torino, beh, in ogni caso, Lombardo... Piemonte e Lombardia, ecco. Perfetto. Che diceva che appunto nel suo programma blog Lo Scino del Villaggio voleva fare un inno a lui, perché c'era Meno Male che Silvio C'è, queste cose qui, voleva un inno, e tutti mandavano delle canzoni un pochino così, molto un po' goliardi, diciamo così. E allora mi sono messo, i miei amici mi hanno detto, guarda, però abbiamo sentito delle cose, ma manca proprio l'inno, e anche Bertolino stesso diceva, e quindi ho detto, ma provo a scriverlo io. Ho scritto questa cosa qua, solo che poi ci siamo allungati nei tempi per la realizzazione, perché orchestrarlo in quel modo lì è stata una cosa un pochino più complicata. Non è mica semplice. E quindi i tempi sono allungati ed è venuto fuori comunque alla fine questo. Perfetto, sentiamo il singolo allora che apre il nuovo album che uscirà, primo pezzo dal disco stavolta di Marco, poi con Marco sentiremo qualcosa dal vivo più tardi. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Sa darci speranza nel futuro, è come un ragazzo, ce l'ha sempre in mente, sempre quella cosa, che Dio lo benedica, lui vive per quella, pensa solo alla gente, ci porterà lontano. Di una cosa stai sicuro, prenderà il nostro domani e ce lo metterà in mano. Presidente, da quando ci sei tu, anche quando piove io vedo il sole, che d'inverno spuntano le viole. Presidente, da quando ci sei tu, in un mondo in crisi vedo paradisi dietro ai tuoi sorrisi. Presidente, da quando ci sei tu, anche i delinquenti si sono redenti ed esultano con te. l'uomo che sa darci milioni di ragioni per sentirci così. Ogni giorno più contenti che la forza non gli manchi, che la fede non si perda, e così la nostra vita lui la riempirà di gioia. C'è chi dice sia un cialtrone, c'è chi pensa che sia un pazzo, ma la verità è un'altra, lui è una testa diversa. Ideologia è scappata via davanti alla tua fantasia. Presidente, da quando ci sei tu sento l'aria pura, sento l'avventura, sento che c'è la fretta di cambiare. Presidente, da quando ci sei tu, ma che delizia, onestà e giustizia in un mare di immensa libertà. Presidente. Questo paese era come una bella nave ma piena di falle. Presidente. E tu le hai sistemate tutte con te grandissime idee. Presidente. Tu sorridi sempre, sempre, perché già lo sai. Presidente. Noi un giorno capiremo che ci hai portato solo un'infinità d'amore. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Quindi abbiamo sentito questo pezzo che dà l'inizio al nuovo album e l'inizio anche di una tournée teatrale, qualcosa, sì, mi hai detto, sì, al microfono, sì, spento, sì, mi pare, vero? Sì, sì, c'è, sì, un progetto di teatro. C'è un progetto a cui vogliamo legare appunto un discorso più teatrale, meno appunto meno, cabaret, meno perché... di cabaret. Anche se questo pezzo non è di cabaret, è un pezzo di cantautore, secondo, sì, me, tra, sì, virgolette. Sì. Questa è una canzone. È una canzone vera, canzone, e propria. Sì, sì, sì, poi c'è l'ironia, certo, quello che vuoi, però comunque fondamentalmente se uno leggesse il testo così... e riuscissi a non pensare alle rime mancate, comunque è una vera celebrazione. Una vera celebrazione. Questo. Non abbiamo ancora detto il titolo, però. Da quando ci sei, perfetto, tu. Perfetto, ok, ok. Sì. Ah, tra l'altro, appunto, visto che ci siamo, se qualcuno volesse andare a vedere il video, può anche andare su YouTube, c'è il video, basta digitare Marco Carena, da quando ci sei tu, vi compare il video e ve lo vedete. Perfetto, insomma. Quindi progetto teatrale che poi si svilupperà, eccetera. Sì, appunto, poi... il discorso è vedere se fare poi, sicuramente si farà poi magari un DVD dello spettacolo, ma se riusciamo a fare anche magari un disco prima, insomma è un po' tutto in... io sto scrivendo, vediamo, certo, i pezzi ci sono già, i canzoni. Pezzi del disco come sono improntati musicalmente così? Beh, i testi sono sicuramente ironici, ma i pezzi del disco sono improntati a questo pezzo oppure sono un po' variati? No, no, sono... io questo modo di scrivere che appunto mi piace utilizzare vari stili musicali, quindi passo dal reggae al rock, allo ska, al pop, al terzinato, alla begin, insomma al brasiliano. Al brasiliano. Quindi... poi citeremo un pezzo molto bello su un cantautore brasiliano di un certo livello. Sì, però magari posso farlo anche dal vivo, così diventa anche più triste. Sì, sì, facciamo dal vivo. Facciamo dal vivo. E quindi anche questo disco qui sarà un po' così. Ci saranno, penso, un po' più stili musicali, che questa è una cosa sempre che mi dà... qualche problema con i produttori, con i musicisti, perché dire ma come, ma questo pezzo è diverso dall'altro, come mai, perché, come, cioè non riescono mai a trovare un denominatore comune, no? Una cosa che suoni un po' tutto allo stesso modo, ma non so, io non riesco a vederla se non così. No, tu la vedi così, cioè loro vorrebbero una un'unicità delle cose. Sì, un pochino come un marchio di fabbrica. Ecco, il mio marchio di fabbrica è nel modo di dire le cose, non tanto nello stile che uso per dirle. Ecco. Ma tu sei fuori target, come diceva Zucchi all'epoca. Sì, infatti, insomma, magari sbaglio, magari hanno ragione loro, però io mi diverto così. Ecco, mi viene da, è importante da fare le cose... Importante questo. 22:32, ricordiamo il nostro staff, Michele Toson in regia, il grande Michele, poi c'è Roberto Bardi che ha curato le telecamere, il nostro direttore artistico che è Alberto Prisco, salutiamo anche Vanuccio e Nino che sono qua, ci danno una mano, e le nostre, adesso abbiamo anche una redazione femminile, tre ragazze che ci seguono sempre, ecco. la Patrizia, la Silvia e la Nicoletta. Ma queste non me le avete presentate. Ma quelle non sono mai arrivate, ma ci sono sempre, ci sono sempre. Adesso passiamo a un pezzo che ti ha reso abbastanza famoso, Serenata, cosa dici? Serenata è stata... Ne parliamo un secondo. Allora, Serenata è il pezzo che mi ha portato a Sanremo 91. A Sanremo 91. Cioè, che ho portato a Sanremo 91. Com'era l'esperienza di Sanremo 91, Marco? Allora, voi dovete considerare che io ho fatto il disegnatore meccanico dal 1974 al 1990. Quindi io sì, ho 16 anni di fabbrica dentro. Mio DNA c'è un disegnatore meccanico. Perfetto. Per anni mi sono definito non un artista, ma un ex disegnatore meccanico. Okay. Adesso a fatica e con molto rispetto per il termine mi definisco timidamente, sì, forse qualcosa di artista ce l'ho, cioè scrivo canzoni, ma cioè, è sempre una parola impegnativa da dire artista, secondo me. Ok. Per cui quando ho fatto Sanremo nel 91, io praticamente ho lavorato in fabbrica fino a giugno dell'89. Ah. Anzi, no, del 90, scusa, perché ho fatto San Scemo nell'aprile del 90, però lavoravo. Poi ho fatto... San Scemo l'ho vinto nel 90. Certo, dobbiamo sottolineare questo, che l'hai vinto San Scemo. Sì, sì, il primo. Sono la Nilla Pizzi dei demenziali. Cioè, Nillo Pizzo, sono vivo di rendita da allora. Ok. Fino a giugno ho lavorato, poi cominciavano ad arrivarmi serate, mi ha chiamato Costanzo, volevano appunto tenermi lì per tutto il mese, per cui ho dovuto dire, guardate, io non posso più venire. Devo fare questo, esatto. E quindi praticamente non avevo, come dire, la gavetta alle spalle, cioè avevo il minimo, nel senso sì, avevo fatto come detto prima le vecchie pellacce, i gruppi dal vivo, spettacolo teatrale, compagnie amatoriali, ma mi mancava proprio la vera conoscenza del mondo, quello vero dello spettacolo, no? Proprio quello... dello show business, quello vero. E qui mi sono trovato catapultato dentro assolutamente impreparato, quindi ho cominciato a fare le mie seratine e mi sembrava una vergogna prendere in una serata quello che gli altri prendevano in un mese. Io prendevo, cioè, mi vergognavo, cioè, certo, non mi sembrava neanche giusto, quindi ero proprio una visione del mondo diversa. E quindi sono arrivato a Sanremo con quello spirito lì di Alice nel Paese delle Meraviglie, dove guardavo e non mi rendevo conto. Difatti mi ricordo che dicevo alla discografica che mi accompagnava, dico, ma non è un po' troppo esagerato, bastava per quattro canzoni che facciamo. Dico, c'è gente che salva le vite tutti i giorni, primari, gente che scienziati. Noi qui cantiamo quattro fesserie e la gente impazzisce. Ma no, ma cosa dici? Ma anche tu con le canzoni vuoi aiutare la gente a vivere? Sì, è vero. Però subito non mi sembrava un po' esagerata, no, questa cosa così. Però vabbè, perché lo vivevo appunto un po' con gli occhi disincantati, non mi rendevo conto, ma onestamente, di cosa mi stava succedendo. Perché poi, questo lo dico ed è vero, non è una posa, io non ho mai scritto canzoni pensando diventerò qualcuno, sarà il mio mestiere, diventerò famoso, mi faccio i soldi. No, io scrivevo perché mi veniva da scrivere, avevo bisogno io di sfogarmi così e scrivere canzoni, cioè, questo era il mio unico obiettivo. Poi sì, ho cercato di fare qualche cosa, ma limitatamente, comunque continuo, infatti ho i cassetti pieni di canzoni che sono lì, sono che me le canto io per me ogni tanto. Ho capito. Perché non ho mai avuto quest'ansia di successo, ma veramente, questo devo dirlo, anche se può sempre... Molti dicono, sì, comodo, parli tu che intanto... Però è così, è stata proprio una questione di fortuna la mia. Avevo il pezzo giusto al momento giusto, cioè io ti amo... Festa di San Scemo e l'ho fatta. Una bella parodia del famoso pezzo di Umberto Tozzi, perché tu sei famoso anche per le parodie dei cantautori di un certo tipo. Sì, ho fatto alcune cose. Alcune cose. Vagamente ispirato. Infatti nello spettacolo poi lo dico. Certamente. Sentiamo questo pezzo allora del 1900. Di Sanremo. Sì. Ah sì, poi vi spiego la storia di com'è. Adesso non parlo troppo. Sentiamo. Vi racconto l'epopea di... Perfetto, ok. Thank you. Sono settimane che non esco più. Oggi sono 6 anni che non sto più con lei. È quasi mezzanotte, sei arrivata tu. Non me l'aspettavo, ma cosa c'è? Mi guardi seria e poi mi dici così. Chiacchiera con me. Se ti senti solo, chiacchiera con me. Dai, lasciati andare, ci sono qua io. Se hai voglia di chiacchierare, poi beviamo qualcosa, hai caldo e così ti togli la maglietta e io mi bevo un altro gin. Molto lentamente ti avvicini e hai uno sguardo strano, sei a un centimetro, a un millimetro da me. E dici così, scordati di lei, che ti ha fatto male, scordati di lei. Non ti preoccupare, io te lo giuro, se lo vuoi ti do anche il cuore. Sì, perché tu sei una grande amica e sei anche una gran donna. E mattina sole 7 penso ancora alle tue parole. Lei era una stupida, non ha capito niente, mentre invece io lo so che tu vuoi una donna intelligente. Trovo che sia tardi, è meglio che tu vada. Io rimango in casa e mi metto qua, steso sul soffa, ma chi se ne frega, ti dedicherò una serenata. Ancora un'altra serenata e andiamo avanti a serenate. Sapessi quante ne ho già fatte. Se serenate senza di te. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Sì, dobbiamo sottolineare che questo era un pezzo dal vivo. Dal vivo, sì, dal gli vivo. Applausi erano veri. Sì, gli applausi sono veri, sì, non c'è niente di preferito. Era un bis che ho fatto. Una bonus track c'è scritto sul disco. Sì, infatti, perché era. Infatti, non, in questo disco è tratto da discantautore. Questo, esatto. Anche qui il titolo ha un suo significato, discantautore, perché vabbè. E che è stato realizzato, mi pare, nel 2007. Sì, 2007, certo. Mi confondo. Al Cab 41 di Torino, che è un locale famoso di cabaret a Torino. È praticamente l'unico che è rimasto, che fa cabaret da anni. Tutti. E sono passati tutti da lì, tutti i più grandi. Anche quelli che ci sono adesso sono passati da lì. Che, visto che siamo amici, che anch'io ho fatto delle cose, quella sera ho detto, dai, devo fare sto disco, dobbiamo registrarlo, fammelo fare lì da te, cioè, c'è un bel palco, c'è un bel pubblico, e quindi abbiamo fatto lì. E dicevo, la storia di Serenata è particolare. Ecco, citiamola qui. Perché è un pezzo che io avevo nel cassetto da anni. Questo qua l'avevo scritto da anni. E lo tenevo lì. Mm. Perché, essendo che questi giochini qui, no, chiasco, scordati di lei, queste cose qua, no? Era una cosa scritta così per gioco. Non mi sembrava un pezzo di qualità, ecco. Anche se comunque ha un suo significato, perché nasce da una storia vera. Cioè, che c'era un mio amico nella compagnia in montagna, che era tipo l'orsacchiotto delle ragazze, no? Questi, quando erano dei problemi, che erano un po' tristi, andavano lì, gli si buttavano addosso. Ah, Tony, solo tu mi capisci, cioè, fammi le coccole, perché aveva litigato con il fidanzato. E lui diceva, sì, ma fammi le coccole, ma io mica sono di cartone. Esatto. E queste non lo capivano, e allora ecco perché questa cosa qua, cioè che queste donne, che la loro grande sensibilità gli impediva di capire che avevano a che fare con un essere umano, non con un peluche, per cui questo. Però comunque rimaneva un pezzo che, cioè io ho scritto io ti amo, queste cose qua, mi sembrano pezzi invece più alti, no? Come quando poi i discografici, infatti non c'è nel mio disco il meglio di, non esatto. C'è Serenata, nella prima versione. Nella prima versione. Poi mi dissero, vedendo che il disco vendeva bene, che insomma che la cosa funzionava, che il personaggio mio andava, mi dissero, ma hai mica un pezzo per Sanremo che proviamo a presentarlo? Io subito dico: no, non ce l'ho. Ma possibile che non ce l'hai? Così. E una sera, durante una cena, mentre registravamo il disco a casa di Roberto Colombo, che vabbè, era produttore, te lo saluto, sì. Ciao Roberto, perché lui è il marito di Antonella Ruggiero, quella di Mattia Mazzara. È quello che ha scritto la sigla di Resta Aeronauta, sono 30 anni, sempre lui. Poi sono andato alla PFM, sì, quindi un sacco, produttore di Annacci, sì, cioè sì, uno sì. Bravo. Uno molto bravo. Molto simpatico, molto molto pazzo, nel senso sì. Migliore della parola. E allora disse, ma no, non ci credo. Allora una sera, che sai... nell'euforia della serata, nella goliardia, così, ho detto, ma sì, ci sarebbe questo, e ho fatto serenata. Ho detto, no, ma questo qua è fortissimo, ma no, ma questa qui è una porcata, ma dai, questi doppi sensi, sembra quella canzone sotto il monumento di Mazzini, fammi vedere la fila, fisarmonica, no, ma no, guarda che bello. Mi sono fatto convincere, l'abbiamo registrato. Però io veramente ho detto, no, io con questo pezzo qui mi rovino, perché... Io ti amo, questi dischi, cioè, mi hanno dato una credibilità, e questo arrivo con sta cosa, ma no, non funziona mai. Ma no, figure. Comunque niente, stampiamo il disco, vado a fare le prove a Sanremo. Devo fare tipo le prove, tipo domani, no? Arrivo sì. Oggi a Sanremo, domani avrei dovuto fare le prove. E allora mentre siamo lì, dico, già andiamo all'Ariston, che oggi, perché c'era anche Riccardo Cocciante, quell'anno che è presentato dalla Virgin, la stessa etichetta mia. Allora c'era Riccardo che stava provando in teatro, andiamo a sentire Riccardo che provava. E poi sto lì, all'Ariston, voglio dire, sei all'Ariston, vai via, sto lì, guardo, sì. No? Insomma, mi sembrava di essere appunto, lì c'era Renato Zero che provava quello lì, vecchio, diranno così, e quindi vedevo, mi è passato Renato Zero a 50 centimetri, insomma, ero lì. Insomma. A questo punto va su il maestro Mazza, sì. Quello prodotto da Arbore, no? Così certo, qui. Sì. E canta una canzone che è Il Lazzo. Ah, sì. Il Lazzo. Chiaramente dicendo questa parola poco usata per la rima imbarazzante, sì. Tutto fa un gioco così. Ma si sentiva che dietro c'era, come dire, il marchio di fabbrica della banda d'Arbore. Della banda di Arbore, insomma. Cioè, il marchio era quello lì. E sento, insomma, vengono fuori delle, diciamo, non critiche, non molto positive, elogiative. Ecco, un po' così, no? Dico, e io penso subito, ecco, figurati. Mazzuolano, maestro Mazzano, questo. Toccherà a me. Quando vado io domani, figurati, mi fucilano sul palco, cioè certo. Proprio mi mettono la band e mi fucilano lì. Invece non so perché, il mio pezzo è piaciuto. Vedi. Il mio pezzo è stato apprezzato dalla critica, anche Luzzatto Fegis, che di solito molto era cattivo, molto che cattivo. Tutti temevano. Esatto. Disse, no, carina, sei un caposcuola, lo dici tu. E, insomma, quindi le mie paure sono state fugate e devo dire che è una canzone che negli anni poi ci ho fatto la pace. Per anni non l'ho fatta nelle serate, non la facevo, forse me la chiedevano come triplo bis, alla fine. Cioè, non la sentivi? No, preferivo fare altro. Poi adesso invece diciamo che la faccio volentieri, adesso, sì, ci ho fatto la pace. Sì. Cosa molto positiva, il risvolto di una canzone importante, i tre minuti di target, entro tre minuti bisogna fare un pezzo, saremo 3 minuti 44, no? Ah sì sì, e com'è il discorso quello, di è dura, vero? Quello, sì sì sì, che mi sembra, che mi hanno spiegato perché c'è questa, se non sbaglio recentemente qualcuno mi ha spiegato che c'è una cosa della SIAE, ho capito, che se stai in un certo minutaggio il, come dire, la pagano un tot, se vai oltre scatta come le tasse, ma oltre tot scatta l'aliquota, quindi oltre il suo tempo scatta un'altra aliquota, allora devi stare sotto quella aliquota lì. Questo è il motivo. Poi non so se è una leggenda metropolitana o meno, però l'ultima che ho sentito è questa. Perfetto, adesso cosa facciamo? Adesso sentiamo un pezzo, quello sì, che ti ha reso un po' famoso, decisamente famoso. Sì sì, beh, questa qui Io ti amo. Esattamente, San Scemo Docet, e questo qui è un pezzo invece che con cui non ho mai litigato, anzi. Assolutamente. È un pezzo che mi è, come dire, l'ho scritto non per San Scemo, l'avevo già scritto, lo facevo già nelle serate, perché lì non c'è la questione che deve essere inedito, deve essere un pezzo, sì, inedito, ma voglio dire, non stampato su disco, anche certo. Se l'hai già fatto qualche volta in giro, non c'è problema. E l'avevo fatto proprio così, pensando comunque a fare la parodia della canzone d'amore, dell'amore appunto, sì. Nella forma sua più assurda, certo. Poi c'è questo riferimento, come hai detto tu, a Tozzi nazionale, Tozzi sì. che ha sbarcato in Francia, sì, poi nel tempo l'arrangiamento è un po' cambiato, però insomma sempre io ti metto le parole perché magari mi dimentico, perché c'è anche questa cosa qui che io ormai negli anni ho anche perso la pezzi che canto da una vita, ogni tanto ho dei blackout, ma proprio che mi viene il nero e non mi ricordo più niente. Poi magari non leggo, ma devo sapere che davanti ho le parole. Io ti amo come una bestia, me lo dici sempre che sono una bestia, perché quando siamo con gli altri ti faccio fare figure di merda. Tu mi chiedi le cose per favore, io ti rispondo cazzo vuoi, ma ti amo e non dire che non è vero. Sì, ti amo, quante storie per un occhio nero. Ti amo perché quando ti picchio il tuo sangue mi fa ancora impressione, ma quando ti prendo a schiaffi è sempre una grande emozione, perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, e ti amo perché sei gentile. Se ti amo, mi tenevi sempre l'autoradio. Ti amo perché noi due siamo una coppia davvero affiatata. Io non ho ancora aperto bocca e che tu dici, adesso spara una cagata. Io ti amo. Perché, vedi, mi sono perso anche sulle parole. Se ti amo. Ne ho saltato un pezzo. Scopro adesso che ho saltato nel mio... E ti amo perché con te riesco a parlare. Sì, ti amo. No, non ti slego, mi devi ascoltare. Ti amo perché sei simpatica, meno male perché sei un cesso. Tu racconti le barzellette, io le so già, ma rido lo stesso, perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, e ti amo, perché se no ti avrebbe amato un altro, ma ti amo, sono arrivato prima io. Ti amo perché le mie esigenze tu le sai e mi compiaci, ma allora perché quando facciamo l'amore ti secca se porto gli amici, ma ti amo. Una cosa proprio esagerata, sì ti amo, se n'è anche accorta la mia fidanzata. Ti amo perché sei diversa, infatti ti confondo spesso, ma ti amo al punto che se tu fossi un'altra io ti amerei lo stesso, anzi di più, anzi di più, perché ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo, io ti amo da vicino, ti amo da lontano, sì, te lo giuro, è vero quando dico che ti amo. Io ti amo, tu mi ami, oggi forse anche domani. Che bello che ci amiamo, anche se siamo lontani, anche se siamo lontani. Io ti amo, ti amo, io ti amo, io ti amo. Radio. Le tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Tutto dal vivo, può capitare, Marco. No, scopri adesso che hai dimenticato una riga. Ho saltato una riga. L'hai suonato tante volte per quel motivo. Sì, sì, sì, sì. No, porra, guarda che ti ricordi? Volevo chiederti questo. Ti ricordi al Festival di Sanremo, oltre a te chi c'era? Che suonava con te? Guarda, mi ricordo che c'era Flavio Aurelio anche quell'anno. Aurelio? C'era Flavio che ci siamo conosciuti lì. No, in realtà, non mi dico, forse l'ho conosciuto lì quell'anno. Ah, ho capito. Aurelio. E poi c'era, chi c'era? Ma c'erano i gruppi strani, c'erano i Caramamma, c'erano, forse, Lini Misto Terital, ma forse era un anno dopo. Un anno dopo. Poi, beh, posso citare dei gruppi che sono venuti negli anni, c'erano appunto la discarica di 101, bravissimi, gli H2SO4 di Milano, molto bravi, De Muro, un sacco di gente brava. Devo dire che sono venute fuori negli anni di San Scemo delle vere perle, circondate da, purtroppo, da una marea, perché molti interpretavano il demenziale o queste cose qui con la volgarità, con la goliardia. No, non è proprio così. Invece qualcuno ogni tanto è riuscito a centrare proprio il senso vero e sono venute fuori delle belle cose. Sì, sì, sì. Quindi Io ti amo ti ha aperto le porte di San Scemo. Sì, sì, sì, si è aperto le porte. Una cosa, e poi ti ha aperto le porte anche per tanti altri concerti. Beh sì, perché mi ha aperto le porte del Costanzo, diciamo. Io con quello sono andato a Costanzo e quindi da lì sono stato conosciuto al grande pubblico televisivo. Benissimo. Questo che abbiamo detto era una cosa fondamentale. Fondamentale, sì, perché una promozione come quella oggi è praticamente impagabile. Essere in televisione tutte le sere, anche se non fai niente, comunque la gente ti vede per due ore, per cui sai, è una cosa diversa. Quanto tempo avevi? Cioè, Costanzo Show aveva solo un piccolo spazio oppure più spazi collegati? Cioè non solo uno o uno dopo un certo momento della trasmissione un altro? Sì, io diciamo che più o meno dicevo le canzoni che avevo. All'epoca non è che avessi molto repertorio. E in genere facevo all'inizio Che bella estate, poi semmai dopo possiamo anche farla. Facciamo. E poi chiudevo con Buonanotte, diciamo che questa era un po' la, facevo che, un po' la sigla. Anche nel disco dal vivo Buonanotte, sì, anche sì, ci sono i bonus track più tardi. Sì, sì, sì. Facevo quella, diciamo, quasi sempre un po'. Alle volte mi veniva così sul momento, magari nella Buonanotte, se c'era qualcosa che succedeva in trasmissione, qualche ospite, così avevo tempo a elaborare magari una strofa dedicata allora nella Buonanotte finale c'era magari una strofa dedicata all'argomento della serata o a un ospite particolare, e poi magari nel mezzo, se c'era un momento così, facevo un pezzo, come capitava. A Costanzo per esempio era piaciuta molto quella Histoire des Boulevards, che lui era affetto da questa bulimia notturna, quindi diceva, all'epoca diceva che aveva questa cosa qui, e quindi la canzone su questi sul cibo, sul uva, gli era piaciuta. È molto piacevole, sì, per la delle paste da mangiare. Sì, sì. Ma poi era una storia tenera, una storia d'amore fra due oggetti assolutamente dove l'amore non è non so come mi è venuta in mente, però a me mi è piaciuta fare. No, è molto bellina, decisamente. Diretta rockway.altervista.org, stasera c'è Marco Carena con la sua musica, lo potete vedere e sentire direttamente, sono le 22.54, quindi tutto assolutamente in diretta. Purtroppo, Marco, cosa dici? Facciamo un altro pezzo dal vivo, ce la fai? Sì, facciamo quello lì, Che bella estate. Che bella estate, sì. Ok. L'aveva detto il telegiornale, non fatevi il bagno, finite male. Un tizio si butta nell'acqua del porto, mi sembra che stia male. No, proprio morto. La spiaggia asfaltata, piena di bambini, vedo l'acqua che gli corrode i piedini. Che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io, ma che ci importa dell'altra gente, ci siamo noi, non c'è più niente. Vedo un bambino che mangia il gelato, ma era scaduto, lo ha vomitato. C'è il nipotino insieme alla zia, lei vuole fare le sabbiature, lui l'ha sepolta viva. Una bella ragazza al sole si è addormentata, in 170 l'hanno violentata. Oggi ci sarebbe già il filmato su YouTube. Che bella estate, amore mio, ci sei tu, ci sono io, ma che ci importa te, ci siamo noi, non c'è più niente. Vedo volare in alto, che schifo, soltanto gabbiani malati di tifo. C'è un bambino che nuota con il suo salvagente, passa un motoscafo, non rimane più niente. Guardo lontano, sto qui seduto e vedo laggiù galleggiare una mano. Che bella estate, l'amore mio, qui ad libitum ci sei. Dal vivo faccio cantare il pubblico, battere le mani, perché, vabbè, comunque. Perfetto. Un umore molto nero in estate, decisamente. Ma perché questa in realtà voleva essere una canzone, come dire, con spirito ecologista, per cui sottolineare il male del pianeta, però poi anche sottolineare che molte volte poi uno guarda 5 minuti e dice ma sì, ma chi se ne frega? Questa poi era un, c'è un po' di vena polemica anche qui, c'è un po' la critica a certi atteggiamenti. C'è una bella frase che ho letto su internet che dice: tutti vogliono tornare alla natura, ma nessuno vuole andarci a piedi. Ecco, questo è un po'... La sintesi. La sintesi potrebbe essere un po' questa. Ho letto nella tua biografia che tu hai fatto una cosa molto interessante, e abbiamo parlato prima di iniziare la trasmissione, sì, ma possiamo dirlo adesso. Il musica ispirato al film di Metropolis di Fritz Lang nel 2001. Sì, sì, mi hanno chiamato per fare appunto questa parte. Mm. Di Rotwang, lo scienziato, questo film epico, perché è un film veramente, anzi, è una pietra miliare del cinema del 1926, perché in quel film lì, Metropolis, anticipa tutto, anticipa la televisione che ancora non c'era, si vede invece già degli schermi, anticipa la problematica dell'uomo con la macchina, la tecnologia che sovrasta l'uomo, e il robot che poi è ripreso spudoratamente, ma anche probabilmente volutamente da In Guerre Stellari, sì, quello giallo, quello altro, certo, è praticamente la donna robot di Metropolis, è quello. Quindi un film importantissimo. E poi Torino è una città industriale, la Fiat, quindi è una cosa molto sentita. Per cui sono stato molto contento che mi abbiano chiamato per fare quella parte. Poi lavoravo con dei signori professionisti, insomma, cioè recitavo con Lucia Poli, la sorella di Paolo Poli, cioè una signora... Sono le 23:00. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. C'avevamo lo stop orario. Eh beh, no, giustamente. Lo stop orario bisogna farlo. C'è poco da fare. Come dicevi di Lucia Poli? Di Lucia Poli, quindi ho recitato con Lucia Poli. Un'attrice straordinaria, però di una disponibilità, di una bravura, di una gentilezza, veramente mi sono trovato molto bene. Gran bella esperienza, perché poi appunto io abituato agli spettacoli da solo, quindi a non avere tempi, a non avere, io faccio un po' teatro della commedia dell'arte, perché ho il mio canovaccio da seguire e non è che tutte le volte faccio proprio lo stesso spettacolo. Cambio un po' a seconda dell'umore della, certo, gente, la scaletta la cambio, la giro, il pezzo magari lo smonto, il monologo che faccio. Ma invece lì ero irrigidito dentro alcune parti, per cui facevo veramente fatica. E poi soprattutto abituato a una comicità, all'effetto comico ottenuto tramite la battuta, lì invece vedevo che nelle prime esibizioni dal vivo, insomma, nelle prime recite, esatto, non c'era quella risposta che avrei voluto, cioè sentivo che mancava qualcosa e lo imputavo al testo, che non aveva battuta, non aveva cosa, però il testo non poteva essere un cabaret, quello è teatro, cioè quella era un'altra cosa, e ho capito che dovevo lavorare sul personaggio. E difatti una sera ho detto: stasera lo faccio così, farlo più isterico, più fuori da lì. E infatti l'ho fatto, eravamo già alla quinta, sesta replica, e appena sono tratto dietro le quinte, dopo aver fatto la mia prima uscita, subito la produttrice Adriana Cava del Jazz Ballet di Torino mi ha detto: bravissimo, stasera l'hai fatto benissimo, bravo. Cioè, ero riuscito a trovare la chiave giusta e da lì poi sono andato in crescendo, perché una volta capito qual era poi la cosa, è stata un'esperienza anche questa di, cioè, di scoprire un altro modo di stare sul palco e ottenere altri risultati in un altro modo. Mi mancava proprio quell'esperienza da attore, sì. Quindi è stata difficile totalmente virare a 360 gradi. Sì, non è stato facile, ci ho impiegato un po', è stato un po' sofferto, ma alla fine ce l'ho fatta. Beh, è stata una cosa positiva. No, no, molta soddisfazione. Purtroppo lo spettacolo è uno spettacolo, come dire, impegnativo da un punto di vista tecnico e di allestimento, perché c'erano 30 ballerini, c'erano una coreografia importante, luci, scenografie, insomma, quindi richiedeva dei teatri di un certo, di una certa entità come spazio di scena, e poi anche come spese, diciamo, perché c'erano fonici, c'erano tecnici, insomma, c'era tutta una macchina dietro le quinte per far funzionare una cosa così. E abbiamo girato un po' nel nord Italia, però poi purtroppo il tutto si è esaurito poi nel una quindicina di repliche circa, poi non siamo più riusciti a rifare, purtroppo sono poi mancati, diciamo, non so bene cosa, sì, forse i fondi, o certo. Anche lì poi non ho ben capito come funziona bene il teatro, perché mi diceva anche il regista stesso, che era Ivan Stefanuti, molto bravo, certo, che lui arriva dall'Opera Lirica e lavora ancora all'Opera Lirica. Anche lui stesso dice che non capiva come mai, perché lui era andato dall'opera, non lo so, un altro modo di fare, pensava che, diceva, una volta confezionato un bello spettacolo dovrebbe essere facile vendere, invece poi anche lì c'è tutto un discorso di circuiti, di certo, chiavi che aprono, in che modo non si sa, sono chiavi che aprono determinate cose. Quindi adesso torniamo al discorso, non dico goliardico, ma è stato divertente. Tu hai fatto un progetto di gerontocrazia, una cosa simile. Sì, Geronto Rock. Geronto Rock. Rock, sì. Per la terza età. Sì, sì, sì. Ma sì, perché mi faceva ridere un giorno, parlando così con amici, si parlava che adesso, alle volte, io ho 53 anni, no? E quindi ci capita di dire magari, sì no, c'era uno, sono stato 50 anni, e ne parli come di vecchio. Un mezzo rudere. Esatto. E poi dici, vabbè, è uno come me, forse persino più giovane. E allora con amici dici, ma effettivamente adesso i prossimi pensionati, diciamo, no, fra 10 anni saremo noi. Eh sì, certo, siamo quelli noi. Che dentro hanno i Deep Purple, le Zeppelin, non hanno più le canzoni di Claudio Villa, quelle cose lì, no. Cioè, quindi ci saranno i pensionati che si ritrovano e fanno Smoke on the Water, non fanno più Binario, Tese Solitario o Vola Colomba. O Vola Colomba. Per cui ho pensato di cominciare a fare un repertorio per questi anziani prossimi futuri. E così ho fatto alcune parodie, perché cioè, diciamo, la prima è stata, vabbè, questa era anche un pochino, come dire, mediata da Arbor, che aveva fatto Pancera Gialla, anche lui aveva fatto una cosa di Pancera Gialla. Però io avevo riscritto Bandiera Gialla, proprio facendo la parodia. Poi però ho detto, no, voglio scrivere proprio una canzone nuova, e quindi ho rifatto anche la musica. Ho scritto Pancera Gialla, proprio. Adesso la sentiamo, adesso Pancera Gialla, Fritto Misto, nel disco Fritto Misto. Fritto Misto. È stato proprio qui. No, no, quell'altro. Eccolo là, adesso lo tiriamo fuori. Sì, bello, significativo. Bandiera Gialla è un programma storico della Rai. Arbore e Boccompagna. Sì, no? Bandiera Gialla, certo. Pancera Gialla. Pancera Gialla. Ma perché, infatti, è quello. Ormai, appunto, quelli che, sì, che erano i giovani dello shake di quegli anni lì. Oggi sono tutti quanti sessantenni, lì, sì, credo. Esatto. Perché dagli anni 60 a 90 anni sono passati altri 50 anni, no? Quindi quasi, dire, 50 ormai anni. Sono quelli, sì, per cui forse è più adatto dal testo si evince che forse è più consono ai tempi. Esatto. Sentiamo Pancera Gialla, Pancera Gialla. Fritto Misto. Rock Wave, l'onda del rock. Corsia, è festa grande, questa flebo ci dà la carica, se non vai in coma subito, di sicuro poi qui peggiorerai, Pancera Gialla ti metterai, Pancera Gialla finché vivrai, una stampella ti comprerai, o per terra cascherai, Pancera Gialla tu porterai, Pancera Gialla finché vivrai, o la colite ti prenderà e mai più ti passerà. Pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, solo le città, la felicità. Rovinati già da giovani, siamo tutti ormai diabetici. Quelli che non hanno la protesi hanno tutti, sai, minimo bypass. Pancera gialla ti metterai, pancera gialla finché vivrai. Il tuo fegato scoppierà, la pressione salirà. Pancera gialla che ti darà un po' fastidio, un po' ti pruderà. La tua pelle impazzirà, l'eritema arriverà. Pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, solo le città, la felicità. Volete i pantaloni a zampa d'elefante? No! Volete il giubbotto di pelle? No! Volete gli stivaletti di serpente? No! Che cosa volete? Pancera gialla! Che cosa volete? Pancera gialla! Pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, solo le città, la felicità. Pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, pancera gialla, gialla, il cuore impazzirà, l'infarto arriverà. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ok. Sì, sì, dopo facciamo. Sì, Marco sta girando giustamente il libro, sì, con i suoi testi. Sì, perché dicevo che io su, in realtà, appunto, Pancera Gialla era un po' l'inno della, sì, dei Prostatio. Bello rocchettaro. Sì, sì, che dicevo anche all'inizio, perché il nostro motto è anche se hai un piede nella fossa, con l'altro si balla. Questo era il motto del gruppo, lo spirito era questo. E poi facevo anche delle parodie, appunto, e, perché pensavo che come Bandiera Gialla è diventato Pancera Gialla, perché le cose si trasformano, pensavo che anche in alcune canzoni, dopo dentro la canzone, fosse passato il tempo. Quindi avevo riscritto, ho fatto una cosa quasi blasfema, e ho riscritto Io Vagabondo. Dei Nomadi ed è diventata Io Moribondo. Se volete ve l'accenno. Sì, sì, l'accenniamo subito. Dai. Fa così. Io un giorno me ne andrò e nel cielo dalla vita volerò. Ma un bimbo che ne sa, sempre sani non si è più con l'età. Poi una notte di settembre mi svegliai, brividi sulla pelle, una tosse che vedevo anche le stelle. Chissà dov'è la casa mia e quel bambino che fumava in un cortile. Io moribondo che sono io, moribondo che non sono altro, la mutua non ce l'ho, vivo a scrocco da uno zio. Sì, la stanza è ancora deserto mi sembrava l'ospedale. Ma un bimbo che ne sa, sempre sani non si è più con l'età. Poi una notte di settembre me ne andai, là mi davano il brodino. Io volevo almeno un litro di vino. Chissà dov'è la casa mia e quel bambino che beveva in un cortile io. E via così. Perfetto, questa è la versione di Io Vagabondo. Io Vagabondo che negli anni la salute non è più quella di una volta, quindi è cambiato. Bellissimo. Molto, più che scappare molto... di casa, scappa dall'ospedale. Ecco, certamente, sono tempi che cambiano. Ovviamente. Sì, poi avevo fatto altre cose tipo Sono Tremendo, invece di Sono Tremendo, Sonno Tremendo. Cioè, con tutte le ragazze un sonno tremendo, perché ormai non c'è più quell'interesse, diciamo, di una volta. Bello. Questa era un po' la quanto cosa. È durato questo progetto praticamente? Ma siamo andati avanti un paio d'anni a fare serata dal vivo. Poi anche c'era anche Che Sarà. Ah, che sarà, non so se ho qui il testo, so se però se no ve lo racconto. Che sarà, no, non ce l'ho. Ah. Paese Mio, no, perché Paese mio l'ho scritta anche sulla io. Cabina, sì. Paese Mio l'ho scritta io. Comunque Che Sarà diceva che sarà questo dolorino, che sarà, sarà tutto forse niente, con i raggi si vedrà, che sarà, sarà quel che sarà. Perfetto. Gli amici miei sono tutti qui in corsia, gli altri stanno andando dopo me, insomma tutta una cosa così. C'è il concetto che anche nelle canzoni appunto il tempo è passato, certo, il gioco era questo. Benissimo, allora adesso facciamo una cosa, il giochino nostro, ma lo limitiamo a solo tre dischi, Marco, sì. Non a cinque. Ah, tre. Solo tre, così ecco. Facciamo prima. Sì. I tuoi dischi dell'isola che porteresti su un'isola deserta, tuo piacimento. Visto che abbiamo parlato di Led Zeppelin, abbiamo parlato di Deep Purple, eccetera. Beh, allora, da vecchio rocchettaro, sì, diciamo che... Anche se io poi sono appassionato di punk. A me piacciono molto i Green Sex Day, Pistole, per esempio. I Green Day li sono straordinari. E noi Clash. Sì, beh, anche Clash. Ma è che diventa difficile, capito? Io farei tre DVD con gli MP3, così ce ne stanno dentro una marea. Okay. Quindi Green Day, perfetto. Vabbè, comunque diciamo, sì... Oppure, vabbè, facciamo così, Jimi Hendrix e Buonanotte, così lui è il maestro, di, maestro tutti, di tutti, è fine. È finita. Poi i Pink Floyd, che mi piacciono molto, perché poi sull'isola deserta sono evocativi i Pink Floyd. E poi forse potrei un cantautore italiano, magari un Fossati, una raccolta di pezzi di Fossati, che è uno che ammiro molto, sì. Ha fatto tante cose interessanti, partendo dai Delirio e andando in su. Ah, poi con lui con Yesire. Che con le parole veramente ci sa fare, ci sa fare un maestro. Sì. Ma che tu ci sai fare con le parole. Ma lui, devo dire che... ci fa ma insomma... In un altro modo. Magari lui non scriverebbe mai Ti Amo, non lo so, però dubito che lui forse riuscirebbe a fare quello che faccio io, ma non so se io... Vedi, eccolo qua. La mia banda Si sapeva molto bene con le parole. E lui, anche questo qui, è un pezzo con cui lui ha fatto la pace dopo anni, perché anche lui nei concerti per anni non l'ha mai più suonata questa canzone qua. La odiava? Anche lui. La odiava, invece negli ultimi anni l'ho visto appunto, due anni fa sono andato a vederlo a Dolce Acqua, in un concerto molto bello, anche se poi la pioggia ci ha un po' disturbati, e l'ha fatta, perché appunto... Io ti faccio questa domanda, perché un musicista, tu odiavi Serenata, odia un suo pezzo che ha scritto, per qual motivo? E dopo pace con il pezzo dopo un po' di tempo. Ma perché pensa di... Ma è un po' il discorso che io, diciamo, Serenata in particolare, magari perché appunto in quel momento là... Non era nel tuo... Mi sembrava un pezzo meno colto, certo. un pochino più grezzo, un po' più banale, un po' volgarotto. E quindi la paura è di essere identificato con un pezzo. E quindi che tu sei quella cosa lì, invece magari preferiresti essere identificato con un altro. E questo è un po' un problema che io ho avuto con tutti i miei pezzi, devo dire, perché non per niente io dal 93 non ho più fatto dischi fino al 2004. Per questo motivo qua? Perché, proprio perché io continuavo a essere visto solo come un cabarettista. Ah, ecco. Se sono andato, non è che io non ho scritto pezzi, ne ho scritti tantissimi pezzi in questi anni, però non erano i pezzi di questo genere qua. Quindi, come dire, no, tu sei quei pezzi lì, tu non puoi fare altro. Non mi hanno detto che ho scritto dei pezzi brutti, quelli che li hanno sentiti. Mi hanno detto, no, sono pezzi che sono belli, ma li facesse qualcun altro. Cioè ti avevano identificato in quella maniera. Esatto, perché è questo, che quando viene in Italia, quando, e come succede un po' anche agli attori, succede un po' questo, Lido Banfi, Paolo Villaggio, altri, che vengono identificati con un certo tipo di personaggio, e poi, ma lo stesso a Batantuono, certo, fosse stato per il regista, avrebbe fatto il Terruncello tutta la vita. Certo. Fortunatamente lui ha trovato Salvatore, poi comunque uno che ha del talento, della capacità, ed è riuscito a fare altro, a dimostrare che è un signor attore, può fare il Terruncello ma può anche fare altro. Sono d'accordo con te. Lo stesso Nino Banfi, lo stesso Paolo Villaggio. C'è un po' questa cosa qua, quando vieni messo in un cliché poi dopo non vieni più accettato per altro. E devo dire che invece una cosa che mi ha fatto molto piacere ultimamente è che qualche anno fa mi è stato chiesto da una casa editrice di fare per un libro che parlava della musica a Torino, che parlava un po' di quello che è stato il panorama musicale torinese dal dopoguerra fino appunto agli anni 90, un disco da accompagnare a questo libro che avesse delle canzoni, come dire, significative su Torino, che parlassero di Torino, solo che erano tutte canzoni molto vecchie, prese da vecchi vinili, quindi poi anche musicalmente non erano più. Allora ho detto, guardate, se volete posso fare così, magari provo io a riarrangiarle, metterle, e poi se vi piace, perché io ne avevo una mia, mi hanno chiesto a me se ne avevo una, io gliel'ho fatta sentire, gli è piaciuta molto, dopo questa mi ha detto, sì, dai, facci anche le altre. E ho fatto questo disco, che non è un disco assolutamente comico, cabaretista, cioè ho fatto le canzoni serie, torinesi, riarrangiate. Tutti quelli che l'hanno sentito, perché poi la distribuzione è stata quello che è stato, la promozione anche, però quelli che l'hanno sentito hanno apprezzato il lavoro in sé, e nessuno è venuto a dirmi sì, però non c'è neanche una canzone comica, nessuno, e questa per me è stata una grande soddisfazione. Vuol dire che hai sorpassato, sì, la perché sponda, questo dimostra che se comunque fai delle cose che hanno un suo senso compiuto, che alla fine il pubblico poi recepisce, se certo, riesce a andare oltre l'immagine che hai. Il marchio di fabbrica vale fino a un certo punto, poi se riesci a superare il marchio di fabbrica, mi pare il disco è Ciao Torino, esatto, del 2005. Torino. Sì, infatti. Prodotto assolutamente atipico, atipico, un prodotto diverso. È una cosa parallela, lì. Addirittura ho scoperto proprio l'altra sera che ho fatto una cosa a Torino, è venuta a salutarmi una ragazza col fidanzato e lui mi diceva che lei mi ha scoperto proprio in questo disco qua, perché in un via, lei è di Bologna, quindi non capisce niente di piemontese. Lui all'autogrill ha visto questo mio disco, l'ha comprato e gliel'ha messo in macchina e l'ha fatto sentire, e ha detto, ma chi è questo qua? È Marco Carrera. Quindi che cantavo canzoni serie in piemontese, dice mi piace, bravo, e da lì ha scoperto le altre cose, vedi. Questo è positivo, cioè cose strane, però bello, no, bello, molto bello, decisamente bello. 23:20 e 17 minuti, sentiamo un altro pezzo da disco, cosa dici, così ti riposi un poco dalla voce. Sì. La domenica mi pare l'altro pezzo. La domenica. Esattamente. Perfetto, lo sentiamo assieme allora. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Martedì va meglio perché è un giorno di meno e il capo non c'è. Mercoledì siamo solo a metà, è ancora un miraggio la libertà. Giovedì è da paura, mi servirebbe la controfigura. Venerdì mi sento mancare, ma è l'ultimo giorno, ce la posso fare. Il sabato è arrivato, tutti al supermercato, c'è un bambino bastardo che sembra un porcello, mi punta, poi parte e con il carrello mi stritola un piede. Però la domenica che cosa fai? Mi sveglio alle 11. Hai 10 che hai? Magari faccio 13. Sono a mio oramai. Me ne vado ai tropici. Sei cinema non piace a lei. Una pizza va benissimo, sei a dieta, lo sai. In centro a bere un tè, ma dentro non c'è. La domenica, la domenica. Lunedì mi sembra eterno, le partite o la politica, un vero inferno. Martedì, morale è a terra, crollata la borsa, scoppiata la guerra. Mercoledì, così per cambiare, un altro scandalo è per noi sempre più da pagare. Giovedì, e dai finalmente, al capo gli è preso un mezzo accidente. Venerdì è un giorno speciale, come fosse quasi Natale. Il sabato è arrivato, mi sveglio rintronato, e come ogni festa ho già mal di testa. Metto una supposta, apro un po' la finestra, mi brucia in gola lo smog. Ma la domenica, che cosa fai? Se c'è un tempo splendido, ma piove, lo sai. Si parte con la macchina, c'è il blocco, non puoi. Via dalla città, che cosa c'è già? La domenica, che cosa fai? Me ne sto a casa a leggere, sia noi a lei. Un museo va benissimo, se chiuso che fai? L'amore insieme a lei, litigherai. La vita si sa, chiede tanto e così poco dà, ma il giorno arriverà che qualche cosa indietro lo dà. La domenica, che cosa fai? Mi piace andare al cinema, non piace a lei. Una pizza va benissimo, sei a dieta, lo sai. L'amore insieme a lei, Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo sempre con Marco Carena. Bel pezzo questo qua, molto trascinante. Tu dicevi a microfono spento che poteva essere una sigla, poteva essere lanciata. Sì, sì, poteva essere una cosa di domenica in, certamente. Perché no? Poteva essere lanciata, ben fatto, trascinante, sì, sì, suonata sì, con un certo livello. Certo. Ma chi lo sa, se comunque è lì, magari non si sa mai. Si sa mai. Via internet si può sentire da tutte le parti. Quindi... Ah, beh, sì, sì, filmati ci sono. Filmati ci sono. Internet, fortunatamente, ci ha dato questa grossa mano. Da una parte ci ha tolto magari la possibilità di vendere dischi, di guadagnare qualcosa come diciamo, introiti, però ci fa guadagnare molto come pubblicità, perché comunque poi con Facebook. Infatti, questo disco qui, il primo che abbiamo sentito, quella del presidente, da quando ci sei tu, l'abbiamo messa praticamente soltanto in internet come video e si ascolta lì, perché alla fine è un veicolo, perché poi passare in rotazione su MTV, in queste cose qui, invece internet ci dà modo di esserci, ecco, insomma. Esattamente, importantissimo questo. E a proposito di questo, poi cita il tuo sito dove si potrà queste robe, eccetera. Alla sua pagina Facebook cercate Marco Carena e lì c'è tutto qua. Poi c'è anche il mio sito www.marcocarena.it, ma sto un po' rimaneggiando. Quindi su Facebook. Purtroppo anch'io mi sono fatto prendere un po' dall'idea che forse, anche perché vedo che è così, ormai quasi tutti vanno a vedere solo più Facebook, neanche più MySpace. Esatto, sì. Il sito sì, rimane qualcosa, ma vedo che molto di più i ragazzi, le cose così, più facile Facebook, perché trovi filmati, trovi tutto. Poi certo, chi vuole vedere i testi, chi vuole vedere altro, va magari sul sito. Adesso lo rimaneggerò, lo perché non sono proprio uno smanettone, io quindi devo sempre appoggiarmi a qualcuno che lo stai sistemando, gli aggiornamenti, sì. Questo è il disco che abbiamo sentito, Fritto Misto, mi pare Fritto Mix, sì, Fritto, sì. Mix, pardon, sarebbe questo, perché è un misto di pezzi vecchi, nuovi, dal vivo, in studio, allegri, un po' più tristi, insomma. Aveva una bella base di ricordi musicisti che c'erano, che suonavano, sì sì, beh, qui suonavano delle persone, insomma, era praticamente, c'era chitarrista, batterista e bassista, no, chitarrista e bassista degli Stati, tutto di Torino, grande gruppo di Torino. Poi il batterista deve essere Federico Ariano, che adesso è quello che il batterista che suona in tournée con Finardi, e alla tastiera c'è invece Carlo Bagini, che è un tastierista molto bravo di Torino. Com'è la scena piemontese adesso, torinese musicalmente parlando, tu? Ma che la vivi? Devo dire che la scena torinese è, mi sembra, abbastanza viva. Ma negli ultimi anni ho prodotto delle cose buone, Linea 77, gli stessi Statuto che da anni sono lì, poi sì, ci sono stati il fenomeno, adesso mi sfugge il nome, ma quelli i più famosi, quelli Samuel che canta, Max Casacci, un lapsus, ecco, i famosi vuoti miei, esattamente, Subsonica. Il Subsonica, esatto. Scusate, abbiamo avuto un lapsus. Bravo, il Subsonica. Quindi, insomma, ne sei tremendo di cose. Torino, e poi c'è tutto un sottobosco di cose. Poi, vabbè, senza dimenticare i mitici Righeira. Righeira, sono una parte, sono Veneti, visto che uno abita dalle nostre parti. Quindi. Sì, sì, sì, è vero. John, Michael, Sì, Righeira hanno fatto scuola, chiaramente. Beh, tra l'altro, parlando di Torino, la scena musicale. Volevo ricordare che quest'anno sono 50 anni dalla morte di Fred Buscaglione, un altro grande... Un mito. Che purtroppo a Torino non è stato così celebrato come meritava, però fortunatamente due ragazzi hanno pensato di fare un disco con un po' di canzoni sue, e chiedendo a me e ad altri, appunto tra i quali Bunna degli Africa United, Bobo Boggio dei Fratelli Soledad e altri personaggi così, e lo stesso Johnson Righeira, di interpretare appunto a modo nostro un pezzo di Buscaglione. Mi ha fatto un CD Boom Boom Fred, che è anche poi tra l'altro in vendita, per cui, e gli ricavi di questo disco vanno a una fondazione per la ricerca sul cancro, quindi diciamo che l'intento era anche nobile. Ecco, eccoli qua, eccoli qua, eccoli qua, eccoli Righeira. Decisamente quelli qua. E poi lui, tra l'altro, simpaticissimo, sono personaggi pazzeschi. Sì, avevano inventato un modo di, anche di vestire. Sì, sì, hanno creato veramente una cosa irripetibile. Esattamente. Grandi, poi conosciuti nel mondo. Perché poi delle volte, appunto, a Torino cioè, abbiamo personaggi così che hanno vissuto nel mondo. Sì, decisamente. Non c'è. Ma Torino è una città strana che sembra quasi che si vergogni a dire anche noi abbiamo qualcuno che ha fatto delle cose, sembra quasi che si vergogni. Gli stessi torinesi, alcuni, non dico tutti, ma adesso no, c'è un po' un riscatto, però fino al 2006, dopo questo scatto d'orgoglio delle Olimpiadi, c'era quasi un po', non dico la vergogna, ma sì, sono di Torino ma parliamo d'altro, che non lo so come dire, no? Forse perché la Juve va male. Ma non lo so, c'è questo senso. E poi proprio manca comunque a Torino ti dico, è come Buscaglione, è venuto fuori in maniera abbastanza lampante, la non attenzione alle proprie... Adesso si parla tanto dell'eccellenza, adesso non so se qui da voi, nel Veneto, ma a Torino, in Piemonte, c'è questa cosa dell'eccellenza alimentare, c'è tutto eccellenza. Poi ci sono le eccellenze musicali, ma quelle no, quelle non sono, quelle non contano. Come se non fosse anche quella economia, non fosse anche quella, come dire, prodotto del territorio. Certamente. Alla fine è un prodotto culturale. Buscaglione, dobbiamo sottolineare. Nasce da lì, certo. Sì, eppure... Se non ci fosse stato Buscaglione, non ci sarebbe stato Rino Gaetano, per esempio, tanto per dire un nome. Poi, tra l'altro, diciamo che c'è anche un filo diretto che mi lega in qualche modo a Buscaglione, perché recentemente ho visto in un documentario che trasmette Rai Story, che ha trasmesso Rai Storia, c'era la moglie di Leo Chiosso, sì, che era il paroliere di Buscaglione. Sì, esatto. Che diceva che loro agli inizi erano definiti demenziali. Ah, vedi. Quindi c'è un collegamento con te. Per cui ho detto, vedi, appena fai qualcosa di un po'... Adesso è celebrato come... Giustamente, perché poi ci mancherebbe. Però all'epoca era preso così, un po' sotto gamba. Esattamente. E anche lui, come dicevo io, in qualche modo, con tutta l'umiltà e tutta la distanza che devo prendere da un genio come era lui e che io assolutamente non mi ritengo, anche lui comunque aveva questa cosa che a un certo punto il suo personaggio del gangster, del bullo, del bevitore di whisky gli stava stretto, cioè lui voleva far vedere che era un cantautore, un cantante vero, e quindi nell'ultima parte della sua carriera stava cercando di, non si presentava più vestito da bullo, andava nei locali senza bicchiere, infatti i proprietari dicevano: ma no Fred, tu devi andare sul palco col bicchiere. A lui si faceva mettere del tè nel bicchiere, faceva finta un po' così di bere questo qualcosa. Me lo raccontavano anche gli Asternovas, che ho conosciuto appunto in queste conferenze stampa che mi ha fatto presentare il disco a Torino. Benissimo, adesso facciamo una parodia, un modo di interpretare un cantautore brasiliano. Sì, no, ma è una parodia. È una parodia, insomma, molto bella. Sentite le parole, sono molto interessanti. Mi sono divertito molto a fare questa cosa qui del brasiliani che... anche le cose allegre le vedono tristi, no? Sì, è vero. Perché tristezza, per favore, va via. Però cioè, c'è sempre questa saudade. Ora mi sono divertito a fare la canzone De Saudade, che dalla saudade, di spettacolo dico che c'è questo cantautore, no? Orlando Sfigao, che dalla saudade va oltre, va alla sfigage, vista legata all'avvenimento che per i brasiliani è l'avvenimento più importante, che è il carnevale. Quindi diventa così. Arriva il carnevale per l'estate, tanta gente, un grande casino, non si capisce più niente, tutti ne approfittano, allungano le mani, ne approfitto anch'io, becco sempre un uomo. Arriva il carnevale, siamo tutti eccitati, pieni di contentezza, tutti mascherati. Dopo carnevale siamo tutti dimagriti, balliamo mezzi nudi, prendiamo la culiti. A carnevale, a carnevale, che allegria, chi vuoi arriva là. A carnevale, a carnevale, non c'è tristezza, la felicità. Primo carnevale me ne vado in piazza a ballare il samba con la mia ragazza, sono tutti balli che c'hanno un ritmo tremendo, così tutti gli anni prendo uno stiramento. Primo carnevale siamo tutti su di giri, anche quelli che erano depressi fino a ieri. C'era un mio amico, si voleva sparare, detto no mi ammazzo, aspetto dopo carnevale. Carnevale, carnevale, che allegria, chi voglia di ballare. Carnevale, carnevale, non c'è tristezza, solo felicità. Primo carnevale, l'altro anno mio parente dava con la macchina, butto un incidente. Adesso tutti dicono però è stato fortunato, è ancora vivo sì, ma è paralizzato. Primo carnevale, che bellezza, che allegria, l'altro anno a carnevale porta una mia zia, anche mio cugino si era sentito male, sono mai tranquillo quando arrivo carnevale, carnevale. Blue Radio. Blue Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Carnevale riveduto e corretto da Marco Carena, praticamente. Come? Il carnevale riveduto e corretto da te, praticamente. Ah, beh, sì. Sì, sì, sì, sì. Orlando Sfigaccio, cioè, gli sfigato. Occhi di questo cabaretto. Come hai avuto l'idea? Questo è un personaggio brasiliano, ma come hai avuto questa idea qua? Questa è Fred. È Fred, Fred Buscaglione. Veduta. Bellissimo. T'ho seguita. T'ho fermata. T'ho baciata. Ehi, piccola. Piccola. Piccola. Pensate che appunto all'epoca c'erano pezzi come Vola Colomba, c'erano quelle cose lì, insomma. Ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sei così. Bellissimo, bravo, bellissimo, bravo, era bravo. Leo Chios faceva tutti i testi, gli arrangiamenti che faceva? Era, penso, lui, Buscaglione. Buscaglione faceva lui. Lui con gli Asternova, Sponca. Certamente. Insomma, sono bene. Qualche testo non l'ha fatto anche qualcun altro, non proprio tutti i Chios, però erano molto, molto... Per esempio, raccontava il figlio di Leo Chios, Fred Chios, che l'ha chiamato Fred, si chiama. Certo. Che per esempio c'era un pezzo di Buscaglione, Che notte quella notte, no? Che dice c'erano stati urla, spari e botte, cioè, tutta una storia di gangster, di cose che... Dice che in realtà tutto è nato perché hanno fatto una cena tutti insieme, poi hanno mangiato sempre qualcosa che gli ha fatto male, c'era qualcosa di avariato, e hanno passato una notte tremenda, tutti, insomma, problemi di colico, cose così, e quindi... Che notte quella notte, e da lì ci hanno fatto, poi ci hanno giocato sopra, perché poi erano, però nascevano da queste cose qua. Poi erano vicini di balcone, proprio abitavano vicini sullo stesso, c'erano anche le case di ringhiera, come si chiama Torino, che hanno nei cortili, c'era all'interno le ringhiere, e quindi loro erano vicini. Quindi una sera andava uno a mangiare a casa dell'altro, e vicini di pianerottola proprio si vedevano, si vedevano la sera. Fra gli diceva: senti, sto musichetta, gli fischiava la musichetta. Chios dice: aspetta, no, questo, e scrivono i pezzi così sul balcone. Ah, incredibile. Sì, sì, erano straordinari. Musicisti veramente straordinari. Grandi, grandi. Benissimo, allora abbiamo parodiato, abbiamo ripreso il carnevale così. Sì. Come mai questa idea del carnevale ripresa così? Ci sono altri motivi, altri riferimenti? No, questo mi faceva solo ridere. E basta. Il fatto di cantare il carnevale nella maniera più triste possibile. Cioè, esatto. Che uno a carnevale vede soltanto il lato... allegro. Negativo. Sì, sì, appunto, uno che è del carnevale. Anche perché poi in realtà, forse è una vendetta mia. Adesso, me ne rendo conto adesso, non ci ho mai pensato prima. Perché da piccoli, ci sono quelli che da piccoli si divertono da pazzi sulle giostre a carnevale, queste cose qua. Io da piccolo mi mettevano... una tristezza infinita, queste cose qua, la giostra, il carnevale, i clown, il circo. C'è gente, io tra questi appunto, che sono cose a cui queste cose portano tristezza. E forse è una mia vendetta. Si è ricordato dopo. Può darsi che mi sia vendicato del carnevale, l'ho esorcizzato così, va a sapere. Esattamente. Ok, 23 e 39, mi pare che abbiamo scelto da disco L'abitudine, mi pare. Sì, e infatti questo pezzo qua io l'ho fatto un po' di anni fa, uscito appunto in Fritto Milk del 2007. 2007, sì, sempre. E, no, forse prima ancora. No, 2007 è il disco dal vivo. 2004. 2004. Perché appunto mi rendevo conto che ormai c'era in me, come in altri, questa abitudine a qualunque cosa. Cioè ormai tutto quanto può succedere, di tutto... E non ci si indigna, non ci si rimane più toccati da niente. Cioè ci si sta preoccupantemente abituando a tutto, al peggio. Cioè ormai il peggio non ci fa più nessun effetto. E poco tempo fa sentivo, forse l'altro anno, qualcuno che, o Veltroni o qualcun altro, sì, che diceva questa cosa qui: l'abitudine, non bisogna abituarsi a queste cose qui. Te guarda, magari se conosceva il mio pezzo, ecco, sì, poteva essere utile a me, perlomeno. Sì, certamente. Però, sentiamo, ok, allora sentiamo adesso L'abitudine di Marco Carena. Rock Wave, l'onda del rock. C'è una strana inquietudine che sale dentro me, un senso di vertigine che mi assale sé. Penso a come va il mondo, a tutto quello che c'è. Per esempio, si picchiano allo stadio, ti rubano la radio, l'inquinamento sale, la peste del maiale, il buco nell'ozono, e c'è un altro condono, i soldi ai bugiardi, ti svegli sempre tardi. Medicine, prostitute e bambine, politici in questura, leggi fatte su misura, comando suicidi, e sudi quando guidi, omicidio mafioso, domenica vi sposo. Quante cose brutte, non le le sopporto tutte. Ma dopo un po' lo vedrai, anche tu ci farai l'abitudine. Ma sì, dai! Perché a tutto si sa, dopo un po' ci si fa l'abitudine. Ma sì, dai! Aspetta solo un poco, vedrai che ti sembrerà più normale. Succede che va sempre così, giorno dopo giorno non ti fa più male. Dopo un po' lo vedrai, anche tu ci farai l'abitudine. Ma sì, dai! Che sale l'inflazione, cattiva digestione, la bomba nucleare, le tasse troppo care, la borsa sale e scende, sparita la tangente, Monte Carlo, gli evasori, il festival dei fiori! C'è troppa spazzatura, vita sempre più dura, cretini di successo, problemi con il sesso, il grande fratello, il pedofilo bidello, andiamo tutti a fondo e giro giro tondo. Quante cose brutte, non le sopporto tutte, ma dopo un po' lo vedrai, anche tu ci farai l'abitudine. Ma sì, dai! Perché a tutto si sa, dopo un po' ci si fa l'abitudine. Aspetta solo un poco, vedrai che ti sembrerà più normale. Succede che va sempre così, giorno dopo giorno non ti fa più male. Dopo un po' lo vedrai, anche tu ci farai l'abitudine. Ma sì, dai! Abitudine, abitudine. Fatti un massaggio, fatti un bel viaggio e poi fatti fatti tuoi, fatti e basta. E dopo un po' lo vedrai, anche tu ci farai l'abitudine. Ma sì, dai! Perché a tutto si sa, dopo un po' ci si fa l'abitudine. Ma sì, alla dai! Alla frenghitudine, abitudine. Alla disonestitudine, abitudine. Alla clandestinitudine, abitudine. Alla terroristitudine, abitudine. Alla miconsentitudine, abitudine. Alle palle sull'incudine, abitudine. Abitù. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, 23:44, quasi 45. Abbiamo sentito questo pezzo, l'abitudine. Con gli statuto che c'erano dentro, però pensare di Marco Carena, ma c'erano gli statuto. Eh sì. Che ti davano una mano. Lo volevo un po' in versione scap, tu lo volevi in versione twist. Sì, sì, però anche così. Però, insomma, sì, è stata una cosa... Ecco, parlavi di una cosa molto interessante mentre il disco andava, del modo che hai di cambiare un pezzo, al di là delle attitudini, non so, del produttore che non vuole. Sì, nel senso che appunto io mi piace usare... i generi musicali, io uso il genere musicale e come scenografia, come vestito per una certa canzone, perché secondo me un genere musicale esprime un certo stato d'animo, no? Quindi, come dire, il heavy metal è molto cupo, il rock and roll è l'allegria, il reggae c'ha questo andazzo un po' così, lo ska è l'allegria, no? Certo, e quindi, come dire, stai parlando dell'abitudine, succedono cose tremende e tu fai le cose allegre, quindi... Mi piace usare come contrasto, come scenografia, perché fare un pezzo come l'abitudine, potrei fare lo stesso pezzo con la musica triste, diventa un'altra canzone, ma diventa palloso. Certo, perché, sì. Insomma, diventa la solita canzone del cantautore che dice, oh sì, perché non va bene niente, invece no. E quindi, e delle volte ho dovuto discutere anche con i musicisti, perché in un pezzo che c'è appunto in Fritto Mix, che è Hai la moda, l'intro, è, cioè, ma l'intro, la prima parte è un pezzo molto metal pesante. E poi vira e diventa una samba molto allegra. E i musicisti mi dicevano, ma oh, cosa c'entra? Partivi in metal, poi va la samba, ma perché? Come mai? Ma c'è, perché c'è un senso? Ma come? No, ma figo, non c'è. Allora, il senso c'è, perché nella prima parte il protagonista è angosciato perché non capisce come mai la sua vita non lo soddisfa, perché lui è triste, quindi c'è una musica cupa, pesante. Quando capisce che tutto soltanto perché lui non si veste alla moda, quindi non è come gli altri, quando capisce che la soluzione di tutto è vestirsi alla moda, ecco che scatta l'allegria e la gioia di vivere, e quindi la samba. Ah, ecco. Vedi. Perché loro la leggono da musicisti, loro la vedono musicisti. Così. Cambiare quindi, il tempo, cambiare il modo, per loro è una, esatto, è una cosa. Quindi invece io la uso in un altro modo, il vestito musicale della canzone lo vedo in un altro modo. Che vestito musicale suoniamo adesso? Abbiamo ancora tempo, non è ancora finita la trasmissione. Cosa suoniamo? Ma io c'è un pezzo che sempre in Fritto Mix, che è Ridere, così diciamo al regista che comincia a prepararsi. Ridere da Fritto Mix, che è un pezzo appunto che parla di ridere ed è l'unico pezzo non allegro del disco. Perfetto. E sono contento perché anche questo ho dovuto imporlo al produttore quando ho fatto Fritto Mix, ho detto, e lui fa, no, ma quella non la mettiamo, perché no, quella la mettiamo, perché secondo me c'ha il suo perché. E poi adesso questo produttore si è fidanzato con una ragazza che è una cantautrice, e un giorno lui gli ha fatto sentire il mio, questo disco qua, e di tutti i pezzi ha detto, no, questo è il più bello. Vedi. Perché lei da cantautrice ha detto, no, questo è un pezzo da cantautore, di canzone d'autore, e anche altri cabarettisti che quindi sanno cosa c'è dietro il fare ridere, che non è semplice, il lavoro, l'hanno apprezzata, quindi sono soddisfatto di questa cosa. Spero lo saranno anche quelli che lo ascoltano. Ma certamente, sicuramente. Rock Wave, l'onda del rock. Bisogna essere simpatici, far ridere, con le donne, con gli amici sempre ridere. È una febbre che ci prende come una malattia. Come dire, siamo condannati alla simpatia. Uno strano, uno diverso fanno ridere, uno sveglio, uno furbo sanno far ridere. Ma non importa cosa costa, la gente fa così. Falla ridere e ti dirà sempre sì. Vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sempre ridere. Allora ridi che la mamma fa gli gnocchi. Ridi, è così bello essere un po' sciocchi. E se hai voglia di andare via, eccoci, siamo qua. Ti porteremo in un'altra realtà. A ridere, vuoi ridere, fai ridere. A ridere, vuoi ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sempre ridere. Solo le bestie, quelle no, non sanno ridere. Ma è l'intelligenza noi che ci fa ridere. Di quelle cose strane e assurde che tu dici, ma no, dai. Ma la cosa più divertente è che anche tu ne fai. E se non capisci basta ridere. Non è lì che stiamo andando tutti a ridere. Le cose vanno come vanno e la nausea sale su una battuta e torna tutto giù. E vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sempre ridere. Allora ridi perché il mondo ride poco. Ridi come fosse tutto un gioco. Ridere o non ridere, tanto è così. E allora ridi che oggi è lunedì. Se ridi non c'è più niente che ti tocchi. Ridi che quando ridi chiudi gli occhi. Ridere, ma ridere fino alle lacrime, che quello è il più bel modo che hai per piangere. E vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sai ridere, fai ridere. Vuoi ridere, sempre ridere, ma sì. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Non abbiamo mica finito, non abbiamo ancora finito con Marco Carena stasera. Abbiamo sentito questo pezzo, sì, come avevi detto te. Sì, è un po' così, la vendetta del cabarettista, quello che dice, cos'è, critico la risata facile, sì, insomma. Che non è facile far ridere, vero Marco? È molto difficile. No, però in questo pezzo quello che volevo sottolineare era che tante volte appunto, adesso qui ho sempre paura di essere troppo serioso, no? Perché uno si aspetta al cabarettista che sparano una valanga di stupidaggini, invece in realtà io scrivo questi pezzi cioè, cercando di mettere dietro delle, cioè, penso che proprio perché stiamo vivendo un'epoca abbastanza difficile, particolare, cioè, no, non stiamo passando un bel momento in generale, non nel mondo, in Italia in generale. Quindi, tutto, secondo me ci sono momenti in cui forse conviene smetterla un po' di ridere, quella risata un po' così che è proprio la risata per scappare via dalla realtà. Ecco, io in questa canzone qui critico quello, cioè la risata usata non per la critica, per lo sbeffeggio del potere o ma è la risata come una droga per scappare dalla realtà. Ecco, io è questo che volevo sottolineare con questa canzone. E difatti è l'ultimo. Che mi sa che non è il momento, è ora di smetterla con la risata come droga e magari utilizzare la risata come stimolo per caricarsi, per arrabbiarsi ancora di più, non per scaricarsi. Ecco, invece dico una battuta, la nausea sale su, una battuta e torna tutto giù. No. Invece non, bisogna che la risata ci faccia venire ancora più su. Ecco. Ho capito. Allora, mi pare che la discografia, questo sia un album del 2004, poi quello dal vivo 2007, adesso è uscito il singolo che darà il là, si spera, un album che è già in costruzione. Tu hai i pezzi già scritti. I pezzi ci sono. Stai decidendo come arrangiarli, eccetera. Sì, quello, è difficile. Quello. Cercare un colloquio con i tuoi amici musicisti per un disco nuovo oppure no? Diciamo che il problema è, come diceva anche Ruggeri nella sua canzone, no? Musicisti session man hanno già sviluppato il refrain, la canzone che vuoi tu quasi non riconosci più, perché così io a casa mi metto lì col mio programmino, faccio gli arrangiamenti come piacciono a me, tutto quanto, e mi abituo a sentire in un certo modo. Poi le porto ai musicisti, questi le pigliano, le rifanno, le risuonano, è un'altra cosa. E io non sono quello che va lì e dice no, adesso la fai così e basta. Anche se delle volte mi verrebbe da farlo, perché mi sembra anche un po' di, come dire, di usarli come dei robottini. Invece è giusto che anche il musicista abbia la sua libertà di espressione, un minimo, insomma, se non stravolge. Diciamo che i musicisti più bravi sono quelli che riescono a capire qual è lo spirito del pezzo e a ridartelo fatto bene. Fatto bene, sì. Invece sono quelli che non lo capiscono e te lo distruggono. E fanno l'accademia, ecco, non so come sì, dire. Sì, fanno, ho capito, i tecnici. Non hanno anima, insomma, dire. O animo in anima diversa. Sì, no, l'anima ce l'hanno in quello che suonano, sì. Però non hanno capito lo spirito del pezzo. Ho capito, sì, è chiaro. Benissimo, allora sentiamo il pezzo che hai scelto da Fritto Mix. E abbiamo scelto la traccia... Quanta nel mondo. Quanta nel mondo è un altro pezzo di quelli dove non c'è niente da ridere, però anche questo mi ha dato molta soddisfazione perché l'ho fatto a San Scemo nel 96. E perché non volevo tornare lì con le solite cose, quelle sezioni di sfiga, io ti amo, serenata, perché sennò sembra che... E avevo in mente questo pezzo qua. Ho detto, ma io faccio questo. Solo che mi è costato un po' di fatica, perché l'argomento, appunto, quanta nel mondo, no? Quindi volevo, come sempre, sintetizzare in un testo, e quella il problema è la sintesi. Ci sono mille cose da dire in quattro righe. In quattro righe, esatto. E allora fino al pomeriggio ero ancora lì che scrivevo il testo. Alla sera dovevo cantarlo e non me lo ricordavo. Quindi cosa ho fatto? Me lo sono stampato e l'ho incollato su un rotolo di carta igienica. Dice quanta nel mondo è quella roba lì, appunto. Quanta cacca. Esattamente. E, in metafora, chiaramente. Certo. E quindi cantavo srotolando il rotolo di carta igienica e facevo molte scene. Alla fine ho anche tirato tipo la stella filante nel pubblico. Dicevo tenete, ne avrete bisogno queste cose. E devo dire che è stato molto apprezzato dal pubblico. Pubblico ha apprezzato veramente, anche se non era un pezzo, appunto, però è un suo perché. E lo stesso Gabriele Ferraris, che è un critico musicale torinese, che era in giuria quell'anno a San Siemo, io ero ospite, l'ho visto partire, precipitarsi verso il retropalco, ha detto adesso vieni qui e mi distrugge perché ho fatto un pezzo sulla cacca praticamente. E invece no, anche lui si è comunicato, oh, bravo, mi è piaciuto, bravo. Perché quindi ho avuto 5 minuti di panico, 5 secondi di panico, poi invece tutto è andato positivamente. Sì. Sentiamo allora il pezzo. Mm. La mattina quando ti alzi, una delle prime cose che fai, come milioni di altri uomini, al mondo la regalerai. Non importa la religione o la razza di appartenenza, casomai è l'alimentazione a fare un po' la differenza. Sai leggere e scrivere, ma ti hanno costretto a studiare, per quella invece no, appena nato la sapevi già fare. Dove andrà, chi lo sa, è una pioggia che fa per le strade, per le città. Quanta cacca nel mondo, quanta cacca ogni giorno, non la vedi ma sai che ce l'hai tutta intorno. Nei paesi civili sono più organizzati, la trovi dappertutto in quelli sottosviluppati. Chi la sua la trova normale, ma tutta l'altra gli fa schifo. Chi facilmente, chi la fa con fatica, vogliamo la par condicio. Chi sempre in modo elegante, sofferta e più d'artisti. Quanta ne vedi in televisione, c'è quella firmata degli stilisti, spalmata sui giornali, fa tendenza messa nei film. Ci sono quelli che si trattengono e poi distruggono gli autogrill. Sai che cosa ha risposto una famosa fotomodella? L'amore dopo, prima c'è quella. Quanta cacca nel mondo, quanta ne abbiamo dentro. Se la vita è l'arrosto, lei è il condimento. Tu vuoi fare la dieta, ci puoi anche provare, ma qua è tutto così. Cucina tradizionale. È il politico in Parlamento che si è inventato una legge apposta, ma godiamoci la vita, che l'importante è fare la nostra. C'è un'epidemia di colite, ma quali mani pulite. Quanta cacca nel mondo, da sinistra, da destra, dal centro, e per 50 anni tutti a farla lì dentro. Ma un giorno arriva l'uomo nuovo, che sorridendo si presenta, ci dà la sua, ma dicendo: e quanta cacca nel mondo e nella nostra memoria, con la carta dei libri ci puliremo la storia. Ma prepariamoci tutti, perché domani si parte, riempiremo lo spazio, andremo a farla su Marte. Finirà la tua vita, finiranno gli amori, e di altra cacca ne uscirà sempre fuori. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, sì, stavolta abbiamo quasi finito. Adesso ci sarà il live per concludere bene la serata. Io sono stato molto contento, molto soddisfatto che tu sia venuta qua, che hai parlato della tua musica, del tuo panorama musicale. Giustamente, ribadiamo, il cabarettista è un'altra cosa, tu sei un cantautore. Eh sì, perché poi conoscendovi dal vivo, frequentando molto l'ambiente del cabaret, cioè, per carità, anche se magari stasera non l'ho tirata fuori, ma io da sempre l'ironia, la battuta, il moto di spirito, infatti con la mia fidanzata non posso mai... Ieri sera guardavamo un film, no? Cos'è che c'era? C'era Ronin. Ah sì, Ronin, sì. Ronin. E c'era questa storia, no, di questi agenti che devono recuperare una valigetta. c'è questa valigetta, tutti vogliono questa valigetta. E io a un certo punto gli ho detto, mi sono messo a ridere, no? Lei mi conosce, mi ha detto, cosa c'è? Dico, no, niente, pensavo, metti che a un certo punto nel film, dopo inseguimenti, spari, queste cose, la valigetta, uno faccia l'altro, no, guarda, lascia stare, ne ho trovata uno uguale sotto casa mia. E quindi lei fa, no, adesso non riesco più a guardarlo, perché penso questa cagata qua. Perché io mi diverto a fare così, poi appunto a distruggere, sì, a dissacrare questo. Quindi io ce l'ho in me, però ho in me anche una parte appunto più, cioè, più riflessiva, più... Quindi il dottore sia comico, ma sia anche riflessivo. Sì, che diffondo appunto queste due anime che cerco di far convivere. Esatto. Allora ricordiamo che è uscito il singolo Da quando ci sei tu, che si può trovare su YouTube. Su YouTube, Marco Carena, Da quando ci sei tu, ve lo vedete. Esattamente, e uscirà quest'album. E stiamo appunto... State provando, state cercando costruendo. Di convincere i produttori a farlo uscire. Insomma. Benissimo, adesso ci salutiamo con un pezzo... Con un pezzo adatto all'ora. Adatto all'ora, esattamente. Grazie a Marco Carena, grazie a Michele Tosoni in regia. Ci sentiamo la prossima settimana con un'altra band e Rockaway continua. Con Marco Carena in questo momento. Grazie. Grazie a voi di avermi invitato, grazie davvero. E come dico sempre, appunto, verso quest'ora qui tutti quanti abbiamo un po' di malinconia, perché pensiamo a quando eravamo piccini e veniva la mamma a darci il bacio della buonanotte, no? Ci faceva tanto contenti, invece non c'è più. Però stasera, per fortuna vostra che ascoltate, ci sono io. Quindi, tra poco, insomma, se siete già lì, insomma, quando andrete a letto, mettetevi il pigiamino, infilatevi sotto le coperte, chiudete gli occhi, state fermi con le mani e provate a pensare che potrebbe anche essere, chi lo sa, l'ultima cosa che fate. Buonanotte a quello che tiene alta la televisione fino alle 3 di notte, spero caschi dal balcone. Buonanotte a quel bambino sta gridando, è mio! Sta chiedendo il suo pallone, lo so, gliel'ho fregato io. Buonanotte al direttore che mi tratta sempre male, ma me la faccio con sua moglie, posso anche perdonare. Buonanotte a chi riuscirà a dormire. Buonanotte a chi non si sveglierà. Buonanotte a tutte quelle che con me non ci sono state. Spero incontrino l'amore, sì, quando saranno pensionate. Buonanotte a quel bambino che non ha mangiato la minestra. E la mamma, con amore, lo butta giù dalla finestra. Buonanotte a chi è qui stasera ed è tutto contento, perché non sa che intanto i ladri gli svuotano l'appartamento. Buonanotte a chi riuscirà a dormire. Buonanotte a chi non si sveglierà. Buonanotte a quelli che hanno la macchina nuova. Chissà se domani la troveranno ancora. Buonanotte a quel bambino con la bicicletta rossa. Mi ha schizzato di fango, beh, spero si spacchi le ossa. Buonanotte, amore mio, ti trovo molto strana. Fissi immobile il soffitto da più di una settimana. Buonanotte a chi riuscirà a dormire. Buonanotte. Thank you. fatela per davvero. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock.